Perfetto Notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Sono una scelta sbagliata per Roma, prima con Bertolaso, adesso con Marchini, l'esultanza di Fini è una risposta. La Lega ha un progetto chiaro anche per Roma, sostenere Giorgia Meloni, occuparsi delle periferie da Tor Sapienza a Tor Bella Monaca, strade pulite, chiusura dei campi Roma. Mi spiace che Berlusconi non ci accompagni in questo processo. Questo è il commento di Salvini, leader della Lega. Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, sempre sulla vicenda delle candidature del centrodestra a Roma, no? Sapete che questa fiction, questa telenovela, come la vogliamo chiamare, questa saga senza fine, con questo colpo di scena, o secondo qualcuno in realtà una decisione che era nell'aria da parte di Berlusconi, che ha messo da parte Bertolaso come candidato ufficiale, che va sostenuto sin qui, e ha scelto invece Marchini. Questo era il commento amareggiato di Salvini. Tra poco parleremo, come sempre, qui il venerdì di politica, facciamo il bilancio della politica della settimana, essendo l'ultima puntata appunto della settimana. E quello che vi chiedo è se volete continuare, naturalmente ne avete parlato molto anche ieri di questa scelta di Berlusconi a Roma, ma soprattutto da chi è composto oggi il centrodestra, cioè se qualcuno vuole votare il centrodestra quali sono i partiti, i gruppi, i movimenti che lo compongono, perché sembra che ognuno a questo punto si arroghi, diciamo, il primato di essere centrodestra. Oggi Berlusconi in un'intervista ha detto: l'ho creato io il centrodestra. Voi cosa ne pensate? Chi è che compone, da chi è composto il centrodestra, e anche quale può essere a questo punto il futuro del centrodestra dopo, diciamo, anche questa rottura almeno momentanea tra Berlusconi da una parte, quindi Forza Italia, e dall'altra Salvini con la Lega e Fratelli d'Italia con Giorgia Meloni. Lo potete fare al 349-238-6666, che è il numero per i messaggi e per i WhatsApp, oppure sulla pagina Facebook di Effetto Notte, che lo sapete, sempre lì per voi giorno e notte. Ci occuperemo anche, purtroppo, fra le altre cose, di questa storia terribile che viene da Napoli, di questa bambina che 2 anni fa precipitò dall'8° piano di un palazzo in una zona dell'Interland di Napoli. C'era già il sospetto che non si fosse buttata, che non fosse caduta accidentalmente, e infatti oggi si ha più o meno la conferma, insomma, che la povera bambina sia stata abusata sessualmente e costretta a buttarsi da quel palazzo. E sembra che ci siano stati anche dei precedenti. È stato arrestato un uomo che è il compagno della vicina di casa di questa bambina, della famiglia di questa bambina. Ne parleremo, e c'è la proposta da parte della Lega che dice: noi abbiamo sempre quel testo di legge, bisogna calendarizzarlo, sulla castrazione chimica. Che ne pensate di questa possibile misura contro pedofili e stupratori? In realtà poi è un nome sbagliato di per sé, che evoca cose che non c'entrano, la castrazione chimica, perché in realtà è una terapia farmaceutica ormonale per inibire la libido sessuale. Vi trovereste d'accordo con questo tipo di misura per contrastare la pedofilia e gli stupri? 349-238-6666, pagina Facebook di Effetto Notte. Parleremo di un sacco di cose, intanto io vi riassumo le più importanti. Consiglio dei Ministri, arrivano le nomine, il decreto banche, Gabrielli capo della Polizia, Pansa al DIS, Toschi alla Guardia di Finanza. Disoccupazione ancora in calo, scende ai livelli del 2012, Renzi esulta, dice l'Italia riparte, il paese però è ancora in deflazione. La bambina violentata e uccisa a Napoli, svolta nelle indagini sulla sua morte, arrestato il compagno di una vicina di casa, per la bimba abusi sessuali e poi costretta a buttarsi dalla finestra. Elezioni amministrative, caos nel centrodestra, duello a tutto campo Berlusconi, Salvini, Meloni. Siria continua il calvario ad Aleppo, colpiti una moschea e un altro ospedale. Norvegia, un elicottero precipita e si schianta, morte 13 persone, a bordo anche un italiano. Musica, l'annuncio di Fedez, lascio la SIAE e affido i miei diritti a una start-up. Sport, canottaggio, Mornati, positivo al doping. Partiamo quindi dal Consiglio dei Ministri in corso, che ha da poco dato il via libera alle nomine dei nuovi capi di intelligence e polizia. Fra questi Franco Gabrielli, attuale prefetto di Roma, che diventa capo della polizia. Alessandro Pansa va al DIS, il Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza. Il generale dei Carabinieri Mario Parente va all'AISI, anche questa è l'Agenzia della Sicurezza Italiana. E poi Toschi alla Guardia di Finanza. Sul tavolo del Consiglio dei Ministri ci dovrebbe essere anche il decreto banche, sul quale ci sono un po' di polemiche, un po' di mistero, un po' di giallo, quello che dovrebbe garantire gli indennizzi, però poi ci chiariamo le idee tra poco su questo aspetto. Continuiamo a parlare di banche, perché oggi alle 13 si è chiusa l'offerta della Popolare di Vicenza. Il fondo Atlante andrà poco più del 90% del capitale della banca e dovrà versare 1,35 miliardi per sostenere l'aumento di capitale della Popolare di Vicenza. Atlante è pronto a partire con 4,2 miliardi in cassa. Di questi però 1,35 ci rimarranno pochi giorni, considerato che proprio oggi si è chiusa la prima operazione che vedrà chiamato in soccorso il fondo Salvabanche e l'aumento di capitale della Popolare di Vicenza, che ha chiesto al mercato 1,5 miliardi, ma ha raccolto solo 130 milioni tra fondi e singoli risparmiatori. Dunque tutto il resto sarà a carico di Atlante. Il fondo si troverà a controllare con il 90% la banca, che nonostante il minimo flottante non ha perso le speranze di quotarsi in borsa. Il responso è atteso lunedì, l'eventuale debutto settimana prossima. Dopo Vicenza, Atlante si cimenterà sull'aumento di Veneto Banca, in apparenti condizioni di maggior sicurezza, e quindi sulle altre emergenze bancarie che dovessero emergere di qui all'estate 2017. Tutto il resto, e comunque almeno il 30% delle risorse, verrà utilizzato per l'acquisto di titoli ad alto rischio derivanti da cartolarizzazione di crediti deteriorati. Atlante offrirà prezzi più alti della media, ma per farlo avrà bisogno delle nuove norme attese dal Consiglio dei Ministri per il recupero delle garanzie. Solo con procedure più efficienti le sofferenze potranno valere di più ed essere quindi pagate a prezzi più cari. Ma qui la palla è nel campo del governo. Marco Ferrando, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E parliamo anche di disoccupazione, perché i dati Istat certificano che in Italia è in discesa. Dal mercato del lavoro arrivano segnali di ripresa. Secondo l'Istat, a marzo il tasso di disoccupazione è sceso all'11,4%, il dato più basso dal dicembre 2012. Rispetto a febbraio si registra un calo dello 0,3%, mentre rispetto a marzo 2015 la flessione è dell'1,1%. I disoccupati scendono a 2.895.000. Pur restando alto in termini assoluti, a calare è anche il tasso di disoccupazione giovanile, che scende al 36,7%, ai minimi dall'ottobre 2012. L'Italia resta però in deflazione. Secondo i dati provvisori dell'Istat, infatti, ad aprile i prezzi hanno registrato un calo dello 0,4% su base annua. In flessione è anche il carrello della spesa, che segna un meno 0,2% rispetto a marzo 2015. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. La politica adesso con le amministrative e la complicata partita a Roma per il centrodestra. Garantisce Silvio Berlusconi che la scelta di Alfio Marchini non significa un nuovo patto del Nazareno, anzi l'ex cavaliere vuole porre fine al governo Renzi, illegittimo e abusivo. Poi il monito agli alleati: divisi perdiamo, non c'è un centrodestra vincente. Ma intanto un nuovo patto del Nazareno potrebbe esserci, ed è quello tra Denis Verdini di ALA e il PD nel giorno dell'incontro tra le due forze politiche. Così Verdini. Questo è stato un incontro fra il PD e ALA, perché abbiamo sostenuto le riforme, sosteniamo altri provvedimenti per trovare un metodo per non arrivare in aula nelle commissioni senza aver discusso e parlato. Tutto. Verdini non è in maggioranza, solo consultazioni, precisa Ettore Rosato, capogruppo Dem alla Camera, ma la minoranza del partito attacca Roberto Speranza. Ma un incontro sbagliato che non fa bene al PD, che non serve a nulla, ci fa solo danno. Ogni volta che si aggiunge un voto di Verdini in Parlamento se ne perdono centinaia e centinaia sul territorio. E il Movimento 5 Stelle chiede che le due forze politiche che salgano al Quirinale per informare il capo dello Stato Sergio Mattarella della nuova maggioranza di governo. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E adesso la svolta nelle indagini sulla bambina violentata e uccisa a Napoli. Diciamo, questa svolta sulla sua morte: è stato arrestato il compagno di una vicina di casa. Per la bimba, quindi, sono stati riscontrati abusi sessuali, dalla ricostruzione di una sua amichetta. Pare che sia stata poi costretta a buttarsi dalla finestra. Di questa storia terribile, vi dicevo, torniamo a parlarne dopo. Intanto torna alla carica la Lega con la sua proposta di castrazione chimica, che in realtà definiamola inibizione chimica, inibizione sessuale chimica. Vedo già molti vostri messaggi alla pagina Facebook di Effetto Notte al 349 238 6666. Quindi i temi sono questo, se volete intervenire qui con i vostri messaggi a Effetto Notte, oppure appunto il futuro del centrodestra e chi oggi rappresenta il centrodestra, quale partito in Italia. Spostiamoci intanto sulle notizie dall'estero, con la Siria, dove la guerra non finisce. Ancora morti ad Aleppo, dove è stato colpito un altro ospedale dopo quello di ieri, ma la seconda città del paese rimane esclusa dalle prove di tregua che scatteranno da domani a Damasco e Latakia. Se in Siria esiste una tregua dalle bombe e dalla morte, certo non ne sono a conoscenza i civili intrappolati nella città di Aleppo, a nord del paese, bambini e donne compresi. In 200 sono morti negli ultimi 7 giorni, 25 solo oggi. A seconda delle fonti, 15 civili sarebbero rimasti uccisi da colpi di mortaio sparati dai ribelli su una moschea. Almeno altri 10 avrebbero perso la vita nell'altra parte della città, bombardata dal regime di Damasco, che oggi avrebbe colpito un altro ospedale di Aleppo, provocando 6 feriti, tra cui un infermiere. Intanto salgono a 50 i morti nel bombardamento mercoledì sull'ospedale di Medici Senza Frontiere, tra le vittime molti bambini, l'ultimo pediatra rimasto in città e altri 5 membri del personale medico. L'ONU ha definito la situazione ad Aleppo catastrofica. Per l'alto commissario per i diritti umani Al-Hussein ci sono rapporti inquietanti che parlano di un aumento delle vittime e di consolidamenti militari anche in altre città, dove l'intensificarsi dei combattimenti, oltre ad ostacolare l'arrivo di aiuti, potrebbe riportare la Siria in una guerra totale. Quel che resta della città di Aleppo, escluso dalla tregua annunciata dall'esercito di Assad dopo l'accordo tra Russia e Stati Uniti per istituire un regime del silenzio a cominciare da domani. Un cessate il fuoco che si annuncia precario durerà 24 ore a Damasco e 3 giorni a Latakia. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E adesso invece in Norvegia, dove non ci sarebbero sopravvissuti fra le 13 persone a bordo dell'elicottero precipitato sulle coste norvegesi, e sul velivolo c'era anche un cittadino italiano. A bordo dell'elicottero c'erano 13 persone, i due piloti più 11 dipendenti Statoil, diretti dal giacimento petrolifero norvegese di Gullfaks a Bergen, sulla terraferma. Di colpo una forte esplosione e una densa coltre di fumo, ha raccontato il portavoce della polizia, e il velivolo è precipitato, una parte del relitto è stata ritrovata in mare, un'altra sulla costa. Subito sono partite le ricerche, si è attivata anche la Farnesina perché a bordo c'era un italiano insieme a 11 norvegesi e un britannico. Il Regno Unito ha inviato una squadra di esperti. Contestualmente, l'ente norvegese dell'aviazione ha vietato il volo a tutti gli elicotteri dello stesso modello, che aveva mostrato difetti già nel 2012. La mente va ai parenti delle vittime, dice in televisione il primo ministro Erna Solberg, e la Statoil manda un team di psicologi proprio per assistere i familiari. Livia Zancanera, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Parliamo di migranti. L'Unione Europea sta preparando un piano per impedire con misure drastiche il temuto flusso estivo di profughi dal Nord Africa attraverso la rotta mediterranea. Tra le misure, oltre alla creazione di centri temporanei di raccolta per profughi e migranti sul suolo libico, si menziona l'ipotesi di aree di carcerazione. Questo lo rivela il giornale tedesco Der Spiegel Online, che ha visionato un documento di 17 pagine elaborato dal Servizio Europeo per l'Azione Esterna. C'è stato oggi l'Internet Day, 30 anni di questa invenzione straordinaria che ha modificato le nostre vite, e comunque si è celebrato a Pisa questa mattina. Però a Pisa si sono vissuti anche momenti di tensione, scontri tra polizia e antagonisti davanti alla sede del Consiglio Nazionale delle Ricerche, del CNR. Un corteo di circa 500 manifestanti partito dal centro della città ha raggiunto l'esterno della sede e per contestare Renzi e la ministra Giannini. Musica. Il rapper italiano Fedez ha deciso di lasciare la SIAE e affidarsi a una società privata per raccogliere i propri diritti d'autore, una scelta che irrompe nel dibattito per rompere il monopolio della SIAE. Lui dice che si affiderà a una startup. E poi, per quanto riguarda il 1° maggio, il concertone a Roma, si dice già che ci sarà un'area di sicurezza in piazza San Giovanni, transennata con 4 varchi di accesso controllati anche con metal detector, quindi misure di sicurezza e antiterrorismo previste per questo concertone di quest'anno. Secondo quanto si è appreso, la fermata metro di San Giovanni sarà chiusa dalle 15. E poi, per chiudere lo sport, Nicolò Mornati, atleta azzurro del canottaggio e fratello del capo della preparazione olimpica del CONI, è stato trovato positivo a un controllo antidoping fuori competizione. Questo l'ha annunciato il presidente del CONI Malagò in una conferenza stampa convocata d'urgenza. Sempre oggi invece è stato riabilitato, dopo 3 anni e 6 mesi di stop, il marciatore Alex Fazer. E per il calcio femminile, la leader CGL Susanna Camusso domani sarà in tribuna al club azzurri di Monpiano, vicino Brescia, per assistere alla partita di calcio femminile tra Brescia e Verona. L'incontro è valido per la 19ª giornata del campionato nazionale di Serie A. Vedrà confrontarsi la capolista Brescia e la campionessa in carica della GSM Verona, secondo a 4 lunghezze. Una gara che è anche un invito che ha accettato dal sindacato dei calciatori e delle calciatrici la leader della CGL Camusso, anche per salvaguardare questo obiettivo comune di dare maggiori diritti e maggiore tutela all'interno del movimento calcistico italiano al calcio femminile. Bene, a questo punto, finita questa prima parte, come sempre, riassunto della giornata, vi invito a continuare con i vostri messaggi sulla pagina Facebook di Effetto Notte e gli sms e i WhatsApp al 349-238-6666. Stato scrivendo in molti su chi rappresenta oggi il centrodestra in Italia, specie dopo questa momentanea, almeno apparente, rottura tra Berlusconi da una parte e Salvini e Meloni dall'altra sul caso di Roma. Che futuro avrà il centrodestra e chi costituisce oggi il centrodestra in Italia? Vedo anche che state esprimendo le vostre opinioni sulla proposta della Lega sulla inibizione sessuale chimica, che viene chiamata così castrazione chimica. Elena scrive: il problema è che ci sono persone che sapevano e non hanno parlato, rispettivamente a questo caso della bambina di Napoli. Questo è terribile, dice, magari sono le stesse persone che invocano la pena di morte, la castrazione e incendiano le case. Sono veramente inorridita. Simone: sono proposte inutili, servono solo a fare scalpore, bisogna invece capire perché si annullano i bambini e li si considerano degli oggetti. Laura dice: è ridicola questa proposta della castrazione chimica, chi fa male lo fa e basta, se gli levi una parte del corpo farà male con un'altra. Ma qui non si tratta di levare, castrazione è un termine diciamo poco opportuno in questo caso, dice, bisogna applicare le leggi, ma applicarle davvero, certezza della pena. Vincenzo dice: semplicemente la certezza della pena, in questo caso senza nessuno sconto. Invece sulla questione di Roma del centrodestra, i vostri messaggi, per esempio: il centrodestra ormai è una carovana allo sbando, scrive questo ascoltatore o ascoltatrice, mettete anche un nome d'arte, che ne so, una volta era una forza coesa che Berlusconi autorevolmente riusciva a dirigere in modo ottimale, ma ormai, venuta a mancare l'autorevolezza di Berlusconi, non c'è più un vero centrodestra, ci sono piccole forze che non riescono a comunicare tra loro. Ci sentiamo un momento. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Roberta Giordano, sempre con voi, ci siamo appena lasciati giusto per aggiornare chi sta viaggiando. Intanto Massimo da Pescara scrive: fino a che non si ritirerà Berlusconi non potrà mai esserci un centrodestra serio e concreto, dice Massimo a proposito dell'invito vi ho fatto a riflettere su chi oggi davvero costituisce e rappresenta il centrodestra in Italia, quali partiti, quali leader e che futuro avrà il centrodestra, soprattutto diciamo con questa cosa che sta succedendo a Roma sulle candidature. E poi Silvia dice invece sulla questione pedofilia: per questi malati vedo bene la reclusione senza acqua né cibo fino a che non sopraggiunga la morte. Un altro ascoltatore: centrodestra è un calderone che riunisce due anime ormai inconciliabili, una destra liberista, mercatista e filo europea e una sociale identitaria e sovranista. Questi termini un po' particolari. La seconda potrebbe trovare convergenze programmatiche col PC di Rizzo se non ci fossero ruggini ideologiche irriducibili. Una specie di fantapolitica questa, di questa visione di questo ascoltatore e ascoltatrice. Comunque ogni pensiero, ogni opinione naturalmente è legittimo. 349-238-6666, pagina Facebook di Effetto Notte. Prima di passare al bilancio della politica della settimana, vi ricordo le notizie più importanti se avete acceso adesso anziché puntualmente alle 21. Il Consiglio dei Ministri vara le nomine per l'intelligence e la polizia e si parla anche del decreto banche. Disoccupazione ancora in calo in Italia, scende ai livelli dal 2012. Renzi esulta, dice, l'Italia riparte, però il paese è ancora in deflazione. Scontri oggi al corteo antigoverno a Pisa, dove si celebravano i 30 anni di internet. Renzi dice incomprensibili questi attacchi. E poi caos nel centrodestra, duello a tutto campo tra Berlusconi, Salvini, Meloni e Marchini. Dice la loro partita è nazionale, ma io penso a Roma. Tra poco ne parliamo. Questa storia orrenda di Napoli, di questa bimba violentata e uccisa a Caivano nell'Interland di Napoli, arrestato l'orco, la bimba Fortuna è stata gettata dal balcone, non voleva più subire. E poi Vienna che frena sul Brennero, niente barriere se non necessario. Per il momento c'è stata quindi una mediazione. La Siria con il calvario che continua nella povera città di Aleppo. E poi a Lucca questa vicenda di un rene sano asportato durante un intervento chirurgico. Il rene sano sbagliato era l'altro, che era malato di tumore. E ora con il nostro Guido Gentili, editorialista del Sole 24 Ore, che saluto. Ciao Guido. Ciao, buonasera. Facciamo il bilancio della politica della settimana, come sempre qui il venerdì, connotato diciamo principalmente dal cambio di cavallo ieri da parte di Berlusconi per le elezioni comunali di Roma. Ha mollato Bertolaso da una parte, ha investito Marchini, investito nel senso di investitura del ruolo di candidato ufficiale. Poi ci sono ancora gli strascichi delle tensioni tra politica e magistratura, il botta e risposta tra Renzi e Davigo, che però mi sembra un po' mediato negli ultimi giorni dal ministro della giustizia Orlando, e oggi le polemiche sull'incontro tra PD e il gruppo Ala che fa capo a Verdini. Ma prima di tutto, Guido Gentili, vorrei approfittare di te per chiederti che cosa è successo oggi in Consiglio dei Ministri sul decreto banche. Si parlava di un giallo, era fuori dal Consiglio dei Ministri, era fuori sacco, no? È sul tavolo. Ci spieghi questa vicenda e cosa consiste, Guido? Sì, formalmente questi provvedimenti, questo decreto che era molto atteso perché riguarda in primo luogo il rimborso degli obbligazionisti delle banche che erano state salvate nel novembre scorso. Ricordiamo la Banca Etruria, la Cassa di Risparmio di Ferrara, di Chieti e la Banca Marche. Era un provvedimento molto atteso e già da tempo era stato annunciato, e insieme alle norme diciamo del nuovo diritto fallimentare per velocizzare il recupero di crediti da parte delle banche. Alla fine è stato questi provvedimenti, che non erano inseriti formalmente nell'ordine del giorno del Consiglio dei Ministri, sono stati discussi e poi approvati, e sappiamo che la cosa più importante è che viene assicurato un rimborso dell'80% gli obbligazionisti che hanno un reddito sotto i 35.000 euro e quindi possono passare facilmente diciamo questi denari, perché non ci sarà arbitrato su questo, e ripeto, le condizioni sono essa avere un reddito sotto i 35.000 euro o un patrimonio mobiliare sotto i 100.000 euro. In questo modo si calcola che circa 5.000, cioè la metà degli obbligazionisti interessati a questa operazione, dovrebbero ricevere questo rimborso. E quindi è un primo passo questo, così come un passo importante è quello della modifica di cui parlavo prima del diritto fallimentare, per cui si cerca di velocizzare il recupero di crediti da parte delle banche, che in Europa mediamente sono tempi che si parla di 6-8 mesi, in Italia siamo a 7-8 anni, e ha detto il Presidente del Consiglio saremo anche noi nei tempi previsti europei, cioè 6-8 mesi. Quindi si tratta di provvedimenti importanti che servono a rilanciare anche la situazione diciamo di un credito oggi bloccato, e si spera che diciamo sia l'inizio, insieme alla costituzione del fondo Atlante che ha cominciato ad operare, di una ripresa diciamo del credito che possa affluire all'economia reale. Quindi vedremo poi nel dettaglio questi provvedimenti, il testo di questo decreto, perché ci sono norme, soprattutto per quanto riguarda il diritto fallimentare, del tutto innovative, che chiamano in causa anche la possibilità di fare del recupero, di aggredire da parte delle banche per recuperare il credito anche dei macchinari, per esempio i capannoni. Quindi si tratta di norme complessivamente nuove, ma anche molto, la cui applicazione è molto delicata, speriamo che sia equilibrata, però questo potremo vederlo solo quando avremo davvero i testi del decreto. Quindi comunque il decreto è passato, è stato approvato dal Consiglio dei Ministri. Guido, invece, per quanto riguarda il centrodestra a Roma, questa saga è arrivata forse alle ultime puntate, forse non mancano mai di regalarci colpi di scena dall'inizio, dopo annunci trionfali, scelte travagliate, accordi traballanti, tira e molla, cambi di direzione, gaffe, ti ricordi le gazebarie, discese in campo a sorpresa, tentennamenti, attacchi incrociati eccetera. Ieri Berlusconi ha congedato l'ex capo della Protezione Civile Guido Bertolaso, che aveva tenacemente difeso sino allora, e ha scelto come candidato per il Campidoglio Alfio Marchini. C'è stata l'indignazione di Salvini, che ha detto Renzi e Casini chiamano, il Cavaliere risponde, quindi per lui è stato ricattato. Meloni, che dice così favoriscono Giachetti. Berlusconi, sulla loro reazione, ha detto ma non mi aspettavo tanta durezza, ma il centrodestra l'ho inventato io. Sentiamo anche un passaggio, oggi era Canale 5. Era sceso in campo Guido Bertolaso per unire su richiesta di tutti i partiti del centrodestra, poi Salvini e Meloni hanno cambiato parere. E allora abbiamo considerato insieme che Roma ha bisogno con grande urgenza, dicevo, di soluzioni, per le emergenze che non possono più essere rimandate, e non potevamo correre il rischio per le nostre divisioni di consegnare la capitale nostra né al PD, che l'ha ridotta in questo stato, né al Movimento 5 Stelle, che al di là di una candidata, diciamo così, telegenica, non è certo in grado di governare una grande città. Giorgia Meloni però sente puzza di inciucio. È vero che io non ho mai dato la disponibilità di Fratelli d'Italia a confluire sulla candidatura di Alfio Marchini, banalmente perché non lo ritengo una scelta, diciamo, di questa metà campo, una persona che viene da una storia completamente diversa, una storia di sinistra, persona abbastanza, secondo me, distante da quello che noi vorremmo rappresentare. Dopodiché però a me pare, insomma, che al di là di come si voglia argomentare, la strada sia quella un po' dell'inciucione, no? Di rimettere insieme figure francamente anche, insomma, un po' già viste e riviste. Sono d'accordo Casini, Fini, Alfano, tutti quelli che fondamentalmente alla fine vogliono governare con Renzi. E lei dice che quindi si profila un nuovo, un riverdito patto del Nazareno. Sentiamo quest'ultimo passaggio di Berlusconi e poi ci dici, Guido. Questo è una stupidaggine assoluta. Io credo che noi, sia con il nostro comportamento in Parlamento, sia con tutte le nostre dichiarazioni, continuiamo a sottolineare come il governo attuale sia il terzo governo non eletto, sia un governo tenuto in piedi da 60 senatori che erano stati eletti dal centrodestra e che hanno tradito il mandato elettorale, e quindi sia un governo abusivo e anche illegittimo contro la volontà popolare. Quindi Berlusconi risponde così a chi dice: ah, qui c'è sotto il patto del Nazareno. C'è stata l'ironia anche del PD dei 5 Stelle, Giachetti, candidato del PD a Roma, che ha detto: adesso Marchini, provo solidarietà nei suoi confronti perché dovrà rivedere lo slogan sui suoi manifesti, visto che c'è scritto liberi dai partiti, anche se Marchini ha già detto che non cambia niente e non ci sarà neanche il simbolo di Forza Italia. Virginia Raggi, del Movimento 5 Stelle, ha scritto su Twitter: oggi cade anche la maschera di Marchini, da liberi dai partiti alle nozze con Berlusconi. Guido, è vero che Berlusconi dice: io avevo fatto la mia prima opzione era Marchini, solo che non piaceva la Meloni. Poi Marchini era uscito anche primo dalle gazebarie che aveva fatto Salvini, no, a Roma. Perché però Berlusconi ora sceglie Marchini? È una questione solo di sondaggi che ha avuto sotto mano? Forse anche i sondaggi. Direi che è comunque una scelta, piaccia o no, ovviamente su questo ci possono essere pareri discordi e legittimi. È una scelta razionale dopo una stagione di caos assoluto che il centrodestra aveva messo in campo in vista di queste importanti elezioni comunali a Roma. E quindi è, da questo punto di vista, è una scelta razionale perché semplifica il quadro di un centrodestra che si era totalmente polverizzato, e dall'altro lato perché l'ha fatto oggi, poteva farlo prima. Certo, poteva farlo prima, doveva farlo prima forse, e l'ha fatto oggi anche perché credo che sia rimasto molto seccato dalle ultime dichiarazioni che aveva fatto il leader della Lega Matteo Salvini, quando ha accennato al conflitto di interessi di Berlusconi, secondo Salvini, per cui sostanzialmente cerca un accordo con Renzi per proteggere le sue aziende, in particolare Mediaset. Credo che questa sia un po' stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso in questo pentolone, in realtà, di rapporti difficili all'interno del centrodestra, e quindi poi abbia deciso Berlusconi di lasciare Salvini e la Meloni e di aprire una partita diversa da quella di Bersolato con Marchini e con altre forze, diciamo, centriste che comunque possono, diciamo, dare dei voti al centro dello schieramento, ecco. Quindi credo che questa sia la scommessa. Guido, ma tu sei d'accordo con il sondaggista Piepoli che adesso veramente la partita riparte, nel senso che ha molte più possibilità il centrodestra, seppure adesso bisogna capire allora chi è, qual è il centrodestra di vincere? Beh, dipende un po' da come, diciamo, da questo dipende da quelle che saranno le scelte e gli umori degli elettori. È possibile che con questa mossa ultima di candidare Marchini e il centrodestra, che fa capo sicuramente a Forza Italia, abbia ritrovato un pochino più di forza e di nerbo elettorale. È possibile che intorno a una candidatura come quella di Marchini si possa, diciamo, ricostituire un tessuto di rapporti che sono diversi da quello proprio dei partiti in senso stretto, quindi ci sia anche un voto, diciamo, chiamiamolo di opinione, chiamiamolo un voto comunque centrista, non schierato pregiudizialmente a destra o a sinistra che possa convergere su questa ipotesi. E certo che appunto sarà, io credo comunque che sarà una battaglia dura, sarà una battaglia dura per tutti, perché poi al ballottaggio si va in due e quindi sappiamo che la candidatura di 5 Stelle, di Virginia Raggi, è una candidatura forte, è una candidatura comunque forte perché sorretta dal partito in questo momento, quella di Giachetti, adesso c'è quella di Macchini, però i posti sono due e quindi sarà una bella battaglia. Guido, prima di lasciarci in attesa di questa bella battaglia, giusto un'ultima battuta se vuoi, perché oggi alla Camera c'è stato questo incontro tra il PD e ALA, il movimento di Verdini, che naturalmente sì, la minoranza PD vede come fumo negli occhi, ma anche il Movimento 5 Stelle critica e dice: dopo questo vertice di maggioranza fra Renzi e Verdini sarebbe quantomeno rispettoso che due artefici del cambio di maggioranza al Senato si presentino al Colle per notificare tutti i nuovi equilibri politici del governo. Che cosa dici? Che battuta fai? Beh, insomma, voglio dire, è chiaro che questo è un ulteriore passo sulla strada, diciamo, di un sostanziale allargamento della maggioranza. Insomma, questo sembra, diciamo, agli occhi del normale cittadino che non vive di stratagemmi e di astuzie politiche, diciamo. In realtà sappiamo anche che è una posizione complicata anche per quanto riguarda la posizione, ad esempio, del Quirinale, che su questo tema evidentemente deve sorvegliare con attenzione, e al momento mi pare che la valutazione sia che sia sostanzialmente una forza aggiuntiva che va, diciamo, a rimpolpare quella che sono i voti a sostegno del governo in Parlamento, che ancora non si può parlare di una vera e propria maggioranza diversa. Però è chiaro che si corre su un filo sottile. Certo, l'incontro di oggi è un passo verso quella che sembra un allargamento alla maggioranza. Effettivamente. Questo non c'è dubbio. Grazie Guido Gentili, ciao Guido, buon grazie fine settimana. Voi. Adesso, prima di lasciarci, fra i vostri messaggi, ancora diamo un po' di spazio prima di questa breve pausa. Stavo guardando la pagina Facebook di Fettonota che si sta riaggiornando. E a proposito del centrodestra, Simone dice: troveranno intese nel prossimo futuro, ma il ruolo di Berlusconi è al tramonto. Il problema è che non c'è un nuovo federatore e la leadership di Salvini è estremista e più vicina alla Le Pen che ai conservatori europei. Ci sentiamo momenti. 349-238-6666, pagina Facebook di Fettonota. Logisticamente, Modul Block. Scarica l'app Modul Block e vivi l'esperienza in realtà aumentata. Vi presenta Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. E se state ascoltando Effetto Notte, lo sapete, siete al posto giusto, nel momento giusto, anche con la giusta conduttrice Roberta Giordano con voi, insieme come sempre sino alle 22. Abbiamo parlato molto di politica, leggo ancora qualche vostro messaggio su questo tema del centrodestra, chi lo rappresenta oggi veramente in Italia e che futuro ha. 349-238-6666 è il numero per i WhatsApp, per gli SMS, oppure c'è la pagina Facebook di Effetto Notte dove leggo per esempio Simone che dice: troveranno intese nel prossimo futuro, ma il ruolo di Berlusconi è al tramonto. Questo è quello di prima. Luciano: finché ci sarà Berlusconi, colonna importante del centrodestra, la situazione resterà questa, è troppo pesante la sua figura in questo partito, tanto da mettere in ombra tutto e tutti. Forse rifondare un nuovo centrodestra sarebbe la soluzione, ma ci vuole tempo e un leader carismatico che ora non vedo. Maurizia dice: il PD è il partito verso destra, secondo lei. Paolo dice: Berlusconi è il centrodestra. Corrado scrive: hanno già un presente il centrodestra, è Renzi. E poi invece sulla vicenda della bambina di cui parleremo tra poco, della proposta della castrazione chimica, che in realtà è un'inibizione farmaceutica della libido sessuale, dice questo ascoltatore: sono per la castrazione fisica, non chimica, è il minimo per chi violenta e uccide una bambina. Mentre Nicoletta dice: come esiste il trattamento sanitario obbligatorio per i casi psichiatrici o i tossicodipendenti, allo stesso modo e con la stessa legittimità dovrebbe essere prevista la cosiddetta castrazione chimica. È solo il termine castrazione che induce a credere che si tratti di una pratica inaccettabile. Ne parliamo tra pochissimo, intanto vi ricordo quali sono complessivamente le notizie più importanti del giorno. Consiglio dei Ministri, arrivano le nomine, il decreto banche, Gabrielli capo della Polizia, Pansa al DIS, Toschi alla Guardia di Finanza. Disoccupazione ancora in calo in Italia, scende ai livelli del 2012, Renzi esulta e dice: l'Italia riparte. La bambina violentata e uccisa a Napoli, svolta nelle indagini sulla sua morte. Elezioni amministrative, caos nel centrodestra, duello a tutto campo tra Berlusconi, Salvini, Meloni. Siria, continua il calvario ad Aleppo, colpiti moschea e un altro ospedale. Norvegia, un elicottero precipita e si schianta, morte 13 persone. a bordo anche un italiano. E quindi, dicevo, si è arrivati a questa svolta nelle indagini sull'omicidio della piccola Fortuna Loffredo, detta Chicca, la bimba di 6 anni morta dopo essere precipitata dall'ottavo piano del palazzone dove abitava, nell'isolato 3 del Parco Verde di Caivano, che si trova nell'Interland di Napoli, successo, vi ricordate, il 24 giugno del 2014. Per l'orrenda fine di questa bambina è stato arrestato oggi Raimondo Caputo, compagno di una vicina di casa, amica della mamma della piccola Fortuna. Lui sarebbe già noto alle forze dell'ordine per abuso e molestie nei confronti di bambini, e questa svolta, si sarebbe arrivati a questa svolta non grazie a testimonianze di adulti, ma al coraggio di alcuni bambini che hanno alzato la testa, così come pare avesse fatto Chicca Fortuna, che per non continuare a subire abusi sessuali o è stata costretta o si è buttata giù dal balcone. Ne parliamo con la nostra Laura Viggiano in diretta da Napoli. Ciao Laura. Sì, buonasera Berta. Oggi appunto l'arresto di Raimondo Caputo, presunto pedofilo e assassino, che arriva dopo quasi 2 anni di indagini molto delicate, coordinate dalla Procura di Napoli Nord, volte dai Carabinieri di Casoria, con il supporto di psicologi, perché sono stati fondamentali, proprio perché è stato necessario ascoltare dei minorenni, anche più piccoli di 10 anni. Questo ha permesso di rendere noti appunto la dinamica di cui parlavi e il contesto molto degradato in cui è maturato l'omicidio di Fortuna Loffredo, appunto avvenuto a Parco Verde la mattina del 24 giugno del 2014. Dalle indagini è emerso appunto che Caputo ha costretto la bambina di 6 anni a salire sul terrazzo dell'ottavo piano di questo stabile in cui la bambina abitava, per poi lanciarla nel vuoto perché pare si rifiutasse di subire l'ennesima violenza sessuale da parte di Caputo. In questi anni c'è chi ha provato a depistare le indagini, ma mentre da parte degli adulti vi era quella che il PM a Roma ha definito un'omertosa indifferenza e colpevole connivenza dai colloqui con i bambini allontanati da quel brutto palazzo in cui è morta Fortuna, si è riusciti a ricostruire i fatti. Decisivo in particolare un colloquio con l'amica del cuore della bambina chiamata Chicca Caputo, era già sotto misura cautelare, come anche la moglie che è tuttora ai domiciliari e che appunto abitava fino a un po' di tempo fa nello stesso palazzo della famiglia di Fortuna. Entrambi erano praticamente agli arresti per violenze su una dodicenne e dalle indagini emerge che Caputo sarebbe colpevole di aver abusato sessualmente anche di altri 2 minori al di sotto di 10 anni, tra cui appunto la compagna di gioco di Fortuna. In quello stesso palazzo, lo ricordiamo, un altro bambino era morto in circostanze simili circa un anno prima, cadendo anche lui da un balcone. Sì, da un balcone, sì, sì. E anche lì c'era stata una circostanza strana, perché un oggetto di quel bambino era cioè non si era trovato. Fortuna, quando è precipitata praticamente dal balcone, è stata ritrovata senza una scarpa che qualcuno ha tolto dalla scena diciamo del delitto. E quel bambino, insomma, che era morto un anno prima, ha comunque legami con i minorenni coinvolti in questa indagine. Oggi noi in quel palazzo ci siamo stati, abbiamo intervistato la mamma di Fortuna Loffredo. Vogliamo sentire allora. Io ho sempre sospettato dal primo giorno che mia figlia me l'avevano ammazzata, perché una bambina allegra e sorridente come lei, che sapeva anche il pericolo, non si poteva mai buttare dal vuoto, mai, perché amava la sua vita, amava me, amava i suoi fratelli, amava la vita come tutti i bambini, amano essere coccolati, crescere, cioè tutto, non si sarebbe mai buttata nel vuoto. Dopo quello che hanno evidenziato le indagini, cosa si sente di dire? Che deve marcire in galera, almeno la giustizia è stata fatta. E questo sarebbe il minimo, comprensibilmente, se effettivamente poi si accertano le sue responsabilità. Laura, tu hai sentito anche il procuratore aggiunto di Napoli, che ha anche descritto bene il contesto, no? Il procuratore capo della Procura Napoli Nord, che è una procura, tra virgolette, chiamiamola satellite, in realtà è una procura praticamente della regione Campania, che ha sede ad Aversa, che si ricade nel territorio della provincia di Caserta, ma che si occupa di un gran pezzo molto delicato della provincia di Napoli. Francesco Greco, sentiamolo. Ritengo che da questa indagine è emerso uno spaccato di un'infanzia, soprattutto nei quartieri periferici di Napoli, di un'infanzia abbandonata, di un'infanzia che non ha possibilità di avere un sviluppo psicofisico adeguato. E questo è un problema di cui tutti noi, istituzioni, la scuola, lo Stato, la Regione, le ASL, la Chiesa, dobbiamo prendere coscienza e individuare le più opportune forme di intervento. Ricordo che i diritti dell'infanzia sono tutelati dalla Costituzione e tutelarli rappresenta per tutti noi un dovere. E la consapevolezza del problema che questa indagine ci ha permesso di avere, almeno noi investigatori, ci induce a denunciare un po' a tutta l'opinione pubblica, alla società civile, che esiste un grande problema in quei quartieri, che non a caso sono quei quartieri dove è più radicata la presenza della criminalità organizzata. Tra l'altro oggi Save the Children con un comunicato ha sottolineato la necessità di dotare finalmente il nostro paese di una forte rete di protezione dell'infanzia e dell'adolescenza. Abbiamo un minuto, Raffaella Milano, che è direttrice dei programmi Italia Europa di Save the Children, per spiegare esattamente in cosa dovrebbe consistere. Buonasera. Buonasera, ma la prima cosa da verificare è che in tutti questi casi c'è sempre qualche adulto che sapeva e che non ha parlato. Noi dobbiamo fare in modo che tutte le antenne che ci sono sul territorio, gli insegnanti, gli educatori, i vicini di casa, cioè tutte le persone adulte, non voltino lo sguardo dall'altra parte. Quindi rete di protezione significa fare in modo intanto che i servizi esistano, soprattutto nelle aree più difficili, più deprivate del paese, e fare in modo che siano formati tutti gli operatori, perché sempre in questi casi, quando poi la tragedia si è compiuta, viene fuori che qualcosa si sapeva, qualcosa si sospettava, ma si è stati zitti, ci si è voltati dall'altra parte. Che è veramente ancora, aggiunge orrore all'orrore. Grazie Raffaella Milano di Save the Children, grazie Laura Viggiano per il tuo racconto e per il tuo lavoro lì a Napoli. Ciao Laura. Grazie a te, ciao. Viabilità. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Notizie che vi ricordo molto in breve: Consiglio dei Ministri questa sera con l'arrivo delle nomine e il decreto banche, Gabrielli capo della Polizia, Pansa diventa capo del DIS e Toschi va alla Guardia di Finanza. Disoccupazione ancora in calo in Italia, scende ai livelli del 2012, la bimba violentata e uccisa a Napoli, una svolta delle indagini, abbiamo appena parlato. Per le elezioni amministrative ancora complicata la vicenda del centrodestra a Roma, duello a tutto campo tra Berlusconi, Salvini e Meloni. Europa 24 notte. Dopodomani prende il via un mese cruciale sul fronte dei conti dell'economia europea, perché la prossima settimana la Commissione europea renderà note le previsioni economiche di primavera, mentre a metà mese arriverà l'atteso giudizio sul documento di economia e finanza e conti pubblici, con cui l'Italia è osservata speciale in attesa di capire di quanta flessibilità potrà beneficiare. Proprio a proposito del DEF presentato a metà aprile, grande era l'attesa a Bruxelles per capire quanto avrebbe risposto ai severi giudizi europei in merito soprattutto all'elevato debito del nostro paese. Sergio Nava ha chiesto a Roberto Gualtieri, presidente della Commissione Affari Economico-Monetari all'Europarlamento e membro del PD, cosa abbia fatto il governo Renzi per rispondere a queste perplessità. L'Italia ha presentato un programma pluriennale di riduzione sostenibile del debito, anche piuttosto significativa, perché si arriva nel 2019 al 123, quindi a una significativa riduzione, con un che poi al netto dei sostegni significa 120%, quindi insomma è una riduzione molto significativa, ma proiettata in un percorso che la rende credibile, perché l'esperienza storica, diciamo, possiamo anche non considerare l'Italia, dimostra, se si guardano la differenza tra previsioni, misure e risultati, che questi obiettivi eccessivamente ambiziosi e di breve termine di riduzione del debito, che sono stati via via, diciamo così, richiesti agli stati, hanno portato non alla riduzione del debito in tutti i casi, perché il debito la riduzione del debito non avviene con una medicina di tagli lineari e di misure shock, perché questo non consente di stabilizzare, di rendere duratura questa riduzione. La riduzione del debito avviene se si riduce il debito e se aumenta la crescita del paese, se si affrontano questioni di fondo e che magari hanno un impatto nel breve termine meno significativo, ma che poi rendono il debito sostenibile. L'Italia peraltro lo ha fatto precocemente, perché come noto dalle stesse stime della Commissione sulla sostenibilità del debito, se si guarda la sostenibilità di lungo periodo, l'Italia è tra i 2-3 paesi più sostenibili d'Europa, perché ha fatto una delle riforme delle pensioni più, diciamo così, incisive d'Europa. Quindi il problema del debito, naturalmente occorre ovviamente tenere conto anche dei rischi di medio e di breve termine e dare quindi la costante indicazione di un percorso virtuoso di riduzione del deficit e del debito. Questa è una condizione, ma questa condizione è, diciamo così, positivamente rispettata dal DEF. Il percorso è chiaro, la direzione di marcia è chiara, le modalità di arrivare a quell'obiettivo sono modalità credibili, sostenibili, il che rende quegli obiettivi veri, non obiettivi che costantemente poi vengono smentiti dai risultati. Questo non è una cosa credibile. Poi i mercati non sono stupidi. Mercati, io penso che se ai mercati si dicesse adesso noi andiamo con un taglio radicale, immediato, non credo che sarebbero rassicurati, sarebbero spaventati, perché dicono: a cosa succede in questo paese? Cioè, gli crolla l'economia, non regge. I mercati sono interessati a una prospettiva chiara, a provvedimenti credibili in cui la riduzione virtuosa della spesa e del debito è sostenuta e alimentata da politiche che aumentino il potenziale di crescita. Europa 24 notte, in collaborazione con Euronet Plus. E ora è tempo di sapere che tempo farà dal nostro carissimo Paolo Corazzon di Trebi Meteo, portatore sano di sole naturalmente, quindi il suo compito è portarci del sole per questo fine settimana, non è vero Paolo? È sempre un po' difficile in questo periodo. Buonasera Roberta, buonasera a tutti. La primavera fa un po' le bizze, diciamo, perché anche questo weekend dovremo fare i conti con una perturbazione sull'Italia. Si parte in realtà bene, perché domani al risveglio avremo ampie zone di sereno in tutto il paese. Poi però tra pomeriggio e sera comincerà a nuvolare al nord-ovest, è la parte più avanzata di questa perturbazione. Arrivano anche i primi temporali appunto sulle regioni nord-occidentali e domenica, ahimè, giornataccia in molte zone d'Italia, con nuvole, piogge e temperature che tornano al di sotto delle medie del periodo. Quindi ci sarà bisogno ancora di coprirsi bene. Però, cara Roberta, aggiungo solo che tutto questo in realtà è abbastanza normale. La solita sfortuna è che arrivano nel weekend, però la primavera è anche questo, ecco. È anche questo, passare un fine settimana sotto la pioggia e quindi magari chiusi in casa. Un tempo un po' lunatico, tu dici che è normale anche per le persone, figuriamoci per il tempo. Grazie carissimo Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Grazie, buon tempo a tutti. Ciao Paolo. Ciao ciao. E ora invece ho di fronte a me il nostro Enrico Pagliarini, che tra poco troverete nel suo straordinario programma 2024, tecnologia portata di mano. E ricordiamo i 30 anni dall'inizio di Internet, oggi si sono celebrati a Pisa, no? Sì, in realtà era il 30 aprile, hanno scelto oggi perché era venerdì, forse non avevano voglia di festeggiare sabato, però è il 30 aprile del 1986. L'ha voluto fare per la tua trasmissione, in modo che tu fossi. Può darsi, fossi, sì, può essere. Al CNR di Pisa. Molto importante, è stato realizzato il primo collegamento ad internet. Oh, attenzione, internet una volta era una cosa completamente diversa, non immaginiamoci, oggi noi clicchiamo col mouse, vediamo le fotografie, i video eccetera, no, all'epoca erano un video, uno schermo nero con delle scritte, non nulla di più. Il collegamento venne fatto con ARPANET, che era la prima rete creata dai militari americani, quindi da Pisa si è passati tramite un'antenna che stava al Fucino via satellite, si è finiti negli Stati Uniti, comunque ci si è collegati ad un computer ed era stata una cosa sicuramente molto emozionante. E io la racconto con proprio la persona, il tecnico l'informatico che 30 anni fa ha realizzato questa. Era lì da solo, perché ci stavano provando alcuni giorni, provavano, non funzionava, lui era lì da solo, fece questa operazione, riuscì e andò a chiamare gli altri. Però che emozione, lasciamo in sospeso, molto suspense, bello, poi bello. Lo sentite subito dopo Effetto Nota, c'è Enrico Pagliarini con 2024. Grazie Enrico. Ciao, ciao, ciao. Collegamento con Enrico via internet, diciamo in viva voce finito. Noi ci risentiamo giusto alle 22 per gli aggiornamenti.